10. Attenzione, canale 10. Senti, come se non funziona più. Vabbè, quando non sai cosa fare, c'è il microfono, non a me, che lo ripristino io. Va bene, adesso vediamo lunedì che ci viene il padrone, io devo ritornare per forza, hai capito? Passarò. Peccato, perché mi trovato la roba che ti sia dice va bene dalla macchina. Lo so già, però ecco dove ti dica. Questo cioè, mi dai soldi vuole. Comunque, non ti preoccupare, c'ho anche l'altro, quello che mi deve dare a Torino, ho capito, o già. Quale? 2009. Lo faccio lo stesso. Questo ci assomiglia a questo qua, ho capito. Lo stesso è il cervello di questo, ho capito, o già. Ehi, ehi. Ma già non è il televisore in sala, se c'è il televisore... Vabbè dai, 5 minuti di tempo per me, dai. Ehi, aiutate, avanti, Alessandro, andare per la rotta del Porto Torre, sa? Alessandro, avanti! Ehi, Gianni. Ehi, stavo cercando una cosettina, stavo cercando un chiamiamolo manuale, chiamiamolo coso, capito? Lo stavo ritracciando e non so dove chiamo, non l'ho messo, vabbè, lo devo cercare. Ma di cosa? Stavo cercando quel manuale lì di Giorgetto. Non lo so, devo guardare quello che cassetto dovevo aver rifilato, adesso qua non me lo ritrovo, devo controllare un po'. Cerca di trovarlo perché quello ci serve. Non c'è niente, lo stavo spazzando, Infatti stavo per fare QRT perché non c'è nessuno il 27. Siamo stati a fare la foto in quell'isola parecchio, come tutti non si è fatto vivo nessuno. Facciamo un po' di salvatura. Con cui mi sta facendo un po' d'ordine, adesso stanno 5 minuti di prova. Ok. Comunque sta arrivando Santiago 4, mi sembra. Radio un po' bassa, Un po' bassa? Sì, sì, bassa. Ecco, bassa. Mi ha profitto di essere stata un po' più lunga. Come può arrivare più bassa? Ha proprio fatto abbondante. È una radio di 3-4, però. Ma ci sono più di un po' grande. Questa volta è una cosa mi fa che più di così non posso fare. Sì, adesso va un tantino meglio. C'è molto correm, perché stavo ascoltando io in altre cose e è un casino, guarda. È possibile ascoltare stasera. Hai sentito? Aspetta un po'. Ok. Molto meglio così? Sì, c'è un po' di eco. Ah, ok, sì, non ce l'ho fatto caso, ce l'ha. E le vicino un po' più su. Cassa di Roger, eccolo qua. Adesso vuoi meglio? Sì, mentre sì. Questo apparato qua spinge un pelino di più, dai, come modulazione. L'altro è un omologato di 73. Apparato di 27 oppure altra roba fa? No, cos'è che hai detto? Se apparato solo di 27 o fa anche altra roba oltre alla 27? No, quello di prima solo di 27. Facciamo una battuta, anzi 23. Ah, a 23 canali ed è pieno di valvole. Ah, allora sarà un Comstat 25. Comstat 25B. Quelli funzionano benissimo, ma l'hai preso nuovo? No, negativo. Negativo, ereditato. Ah, ho capito. No, io ho avuto uno di quelli, funzionavano abbastanza bene, gli avevo messo un Tanner NRLM+2, mi sembra, adesso non ricordo bene. No, va, spinge molto bene. Spinge davvero bene, tranquillo. Quando scalda bene, come si deve, le valvole sono delle calde, riesce a dare dei picchi di modulazione da 3 watt e mezzo a 5, quasi 5, da 5 non ci arriva. Però va bene, che ti dovrei abbinare un microfono preamplificato, un qualcosa di un attimino più serio. Ho il microfono originale, quindi più di tanto non dà. Ma ci hai inserito il range e poi Boston, mi sembra che era. C'è un tasto che va a destra e a sinistra sotto lo speaker, se non ricordo male. Comunque dietro si poteva anche un pochettino aumentare la potenza, perché c'è la flacca e l'OAD, e si poteva aumentare un pochettino. Sì, quello più che aumentare il plate e l'OAD ti permettono di allineare bene lo stadio finale in modo tale da darti il massimo. Non che puoi ottenere un effetto di più. Comunque sì, c'ha il pulsante davanti, si chiama Range Boost, che ha un preamplificatore microfonico, però era già attivo poco fa. Ma nel suo piccolo sono contento, sono solo soddisfacente, divertente. Tenuto bene, ha fatto una necessità che ha avuto di manutenzione fisica, perché aveva preso una porta, però non si vede più niente, quindi va molto bene, fa la sua figura. E quello lì ci puoi abbinare un Tanner, guarda, ci sono ho visto dei microfoni nuovi qua, sa, c'è un negozio dove vendono materiale ricambi TV, non so se ne ha un paio di microfoni preamplificati e non costano molto. Sì, in effetti quel tipo di apparati con quella categoria di microfoni dovrebbe spingere molto bene, molto. Quando capiterà, ci apprezziamo anche un microfono da tavolo e luce. Sì, con un microfono da tavolo dovrebbe funzionare benissimo, guarda, io te l'ho detto, io l'ho avuto quell'apparato lì e ci avevo messo un Tanner, l'M+2 mi sembra, ricordo bene, e c'ho una batteria da 9 volt sotto, funzionava benissimo, lo tenevo a 2, guarda, non di più, perché se tu aumenti, senti la voce, non si capisce un anche. specie lo tiene a due, bella compressa con il regio bus inserito, va bene. Sì, ma infatti quindi questo tipo di apparati qua, quindi gli spingi di modulazione loro spingono ulteriormente, non distorcono, non fanno niente. Quando si parla di valvole danno quello che devono dare senza problemi, prendono e spingono su quello di valvole. Sì, quello lì addirittura lo usavo, quell'apparato con un kilowatt lo usavo, però lo usavo con meno potenza, usato anche col chilo, col chiletto, che aveva anche la, diciamo, l'SSB e l'USB, aveva l'amplificatore lineare, diciamo quell'apparecchio lì c'era solo la M e basta. Adesso l'ultima parte del passaggio, sulla leva? È quello che stiamo parlando noi, l'SSB non ce l'aveva perché il lineare aveva 2 kW in SSB e 1 kW in AM, però l'apparecchio, c'avevo quell'apparecchio lì o la Fayette Constat, lo facevo andare a volte con 350 oppure con 1000. Cavolo, a voglia! E pompava di brutto, Umani. È venuta una sbadigliata. con una 3L20 e da dentro casa la facevi rullare come volevi e poi un'altra in verticale. Apparecchi una volta, ho visto su un catalogo di Contact che davano $150. Non l'ho più visto io. C'era il Constat, poi c'era il Tecco, sembra valvolare, e un'altra marca c'era, più o meno come il Constat. Sta venendo anche a me la voglia sbagliare. Poi li avevano anche modificati i Constat, li avevano fatti 23, 69 canali e anche modificato in banda laterale. E banda laterale l'avevano modificata. Come è possibile? Vabbè, a parte i canali, come sai, vabbè, si sa che cosa assurda di modificare. Li avevo fatto 23 sopra e 23 sotto. Sì. E avevano aggiunto due quarti per spostarsi di 40 sotto, di 23 su 23 giù. Particolare. Stai dicendo uno che faceva le sue modifiche. E più gli aveva aggiunto la banda laterale. Quella della banda laterale non riesco a realizzare come è possibile farla, però non conosco com'è la circuiteria per le bande laterali, quindi non sono sicuro se la fattibilità, però tutto può essere. Oh, vai tranquillo, fatta la modifica e l'apparecchio funzionava perfettamente. Questa a te. No, questo qua a me mi ha scioccato solamente, vabbè, l'anno di produzione, 71, anche se adesso non ricordo bene, che in quel periodo là per $150, diciamo di 300 mila lire nel 73, era oro. Sì, poi era uscito l'HB23, che quello era nominato la Mondessa della frequenza, perché diciamo tutti gli splatter se li prendeva lui. Ma l'HB23? Sì, l'HB23 per auto. Non l'hai mai sentito nominare? Sì, lo conosco, l'ho sentito nominare spessissimo recentemente, perché Claudio Sparviero modula spesso con l'HB23. Ma bisogna vedere se è modello vecchio o modello nuovo, Sì. Ma non sta uscendo. A volte, non sta riuscendo, se non hai modulato, adesso l'ultima volta che ti ho sentito hai fatto il fischio e ti ho detto ci sei? Ah, ecco, no, non sta conducendo, aspetta, dai. Colpa mia. Colpa mia. Sto conducendo la KB23 e credo che ce ne sia un modello solo. Perlomeno quello che usa Claudio dice che ha più di 30 anni e quindi dovrebbe essere quello. Sempre vecchio stampo che lui lo usa con il suo carro più 3 ed è, in effetti spinge molto bene come apparato. Spinge bene, però ti stavo dicendo, quello era denominato la mondezza della frequenza, perché si prendeva tutti gli splatter e tutti quanti. Poi c'era il Tokai c'aveva una radio micidiale, guarda, quello lì era troppo forte. Con l'HB, se tu eri, non so, sul canale 10, guarda, dal 15, ammazzavano gli splatter. Adesso casomai sono in 27, non è più come prima, quando si è iniziati agli anni 70, diciamo. Prima c'erano tantissimi circuiti. E che cavolo? Roba vecchia, eh? E ti sto dicendo, roba vecchia, non c'è solo la cabina, e ci sono stati apparati di ogni genere, di marca ce n'erano. Bello, bello. Vabbè, io sono giovane della frequenza, che quello che ho 26 anni di CB ce li ho, e anche paragone con altri, però le radio uscite prima di quelle che ho usato io, quello che ho usato io già tutto super moderno. Allora, tu chiedi a Claudio che gli ha venduto un Filmaster 6 canali, modificato a 15 canali dopo. Che modello? Filmaster 6 canali. Master 6 canali. IF, Foxtrot, Filmaster, Filmaster 6 canali. Sono A, B, C, D, F, E, F. Era sempre un base, non era un portatile. No, no, diciamo per auto lo potevi usare sia a casa che in auto. A casa dovevi avere l'alimentazione e in macchina l'alimentazione dell'auto, no? A 12 volts. E poi è modificato a più canali. In poche parole si è stato tolto un quarto di ricezione, di trasmissione. Poi da lì andavi, commutavi sull'F e andavi poi su una quartiera esterna messa su un mobile piazzata con dei cavi e con i quarti e tutto quanto è portata a 15 canali. Non penso a te. Vabbè, bisognava inventarsi le cose, se non uno non se le inventava non poteva avere qualcosa in più di gatto. In quel momento quello c'era, fatto, allora devi giocare con i quarti. Allora dovevi giocare con qua. Se tu chiedi a Claudio, gli dici, Claudio, chi è che ti ha venduto a te il Filmaster 6 canali? Dici quello, poi c'era il Filmaster e il Puri 6 canali, però il migliore era sempre il Filmaster 6 canali, perché poi è uscito questo Puri 6 canali che era la scocca, era tutta la verniciata di nero. Invece il Filmaster era sul grigio, grigio chiaro, tutta quanta la scocca. Sì. Di che, figurati un po', se parati me ne sono passati abbastanza fra le mani. Cavolo. A voce. Bellissimo. E tanto adesso le prove le abbiamo fatte, però non le abbiamo parate. Andature, quindi adesso dobbiamo fare un po' d'ordine, perché sono contattivo. Vabbè, ok, casomai, se siete a Claudio, dilli così, chi è che ti ha venduto quell'apparato 6 canali a Porto Torres? Chiedi quello, poi ti dirà lui chi gliel'ha dato. Sì signore, come lo sento glielo chiedo, io sono curiosità, così me ne parlo un po'. Sì, d'accordo, ciao e buon 144 allora, Di Roger, dai. 7351 da parte mia, saluto gli ascoltoni, lascio la parola a TRX, seguito la TRT, se il 744 anche a te, sono con il Carriero, e già ci risultiamo le prossime date, per non male come qualsiasi. Ciao, buonanotte. Ciao Sandro, comunque stazione Romeo Primero, operatore Antonio da Sassari, Ecco. Perfettissimo, non so se puntare sul dito un break o qualcuno che vuole entrare. È stato un piacere Antonio, alla prossima, salutoni. Ok, ciao, avanti il break. Roger, ben sentiti, ben ascoltati da questa parte di Grotte, che in questo momento, senza aver fatto maleducatamente QRX, Ho sentito esclusivamente Sandro Conan e ci tenevo a salutarlo e a ringraziarlo per l'email che mi ha mandato e per i consigli che mi ha dato, perché ho ottenuto davvero un ottimo risultato, Sandro, quindi ti ringrazio, dai. Credo che l'altro amico fosse Romeo 1. Ciao Anto, sono in quella X. Ok, ciao Zugrone. Sì, l'amico è di Alghero, Conrad, non mi ricordo bene il cognome, perché normalmente io mi scrivo tutte quante le persone che entrano a chiacchierare nell'apparecchiatura. Ok, ben sentita, che a te anch'io stavo per chiudere, perché stasera è 27, è tutto morto, non c'è nessuno. Porto del 2, Sandro Conrad e Antonio, io sono in quelli, ci sentiamo un altro momento. Ok, d'accordo Claudio, ci sentiamo un altro momento. Sì, a volte, ti ripeto, è un po' il problema del sabato, capito? Cioè, ciao Sandro Conrad, è prossimo. La gente esce, normale che non sta all'apparato. Sandro, ci sei? Sì, sono qua che sto facendo ordine, che oggi ero in situazione modifiche. KK, comunque ti ringrazio ancora per quell'email che mi hai mandato con quelle foto, e tutto ha funzionato alla perfezione. Parti dal presupposto che non è questo il risultato che senti, nel senso che adesso non sono nel mio QTH. Oh, capa, no, sono contento, se è servito. E abbiamo parlato con Claudio l'altro giorno, infatti lo saluto, ciao Claudio, se ti saluti. Che in effetti è un escamotage per ovviare i problemi di quando non abbiamo una buona messa a terra e niente, quelle sono delle modifiche che aiutano un pochino. Sono contento se ti è servito e se hai migliorato la condizione di poter utilizzarlo in modo diverso. Bene, bene, sono contento. Se ti posso essere utile, già lo sai. Se ce l'ho, si fa. Sì. Ok, ti ringrazio ancora. Avanti, l'altro amico. Ok, ascolta, tu stai uscendo un po' di alternanza, stai uscendo, Sto uscendo, guarda, pessimamente, me ne rendo conto, aspetta un attimino, guarda, un attimino così come sto uscendo, un attimino meglio, dai. Sì, così vai molto meglio, però con l'altro passaggio con più potenza si sente un po' di alternata. Oggi no, è un piccolo problema del fatto che ho l'antenna un attimino in questo QTH qua che non è messa sul palo, è quasi in terra, a poche stazionarie si può permettere un attimino una piccola scarpetta, però di conseguenza si crea questo piccolo problema di alternata, dai. Però diciamo che risolviamo il tutto domani mattina. Ah, allora butti a terra tutto e sistemi tutto. È già a terra, per assurdo se ti dico dov'è, guarda, è una rigo modificata che si trova basata su un basamento proprio, scusando il gioco di parole, di un ombrellone. Oh, io. Ormai non ce n'è più voglia di fare lavori, no? Guarda quanto ce l'ho fatta a piazzarmi questa via, e c'era il capocondominio, mi stava stressando il giorno. Ma negativo Romeo 1, il problema non è quello, anzi io sono per i lavori. Tanto mi volevi? Abbastanza ben fatti. Ehi, alla prossima settimana ci sentiamo. No, ma c'è una sovramodulazione. Oh, mi stava dicendo Claudio se lo volevo, gli ho detto casomai ci sentiamo la prossima settimana. Beh, stavo dicendo, come si dice, il palo che teneva l'antenna purtroppo poi creava una propagazione di rumore nell'appartamento che c'è giù, quindi l'ho messo e solo staccato per metterlo in un punto più agevole, dai, meno fastidioso. No, io prima l'ho stato bene le staffe e poi sono salito un secondo tempo per piazzare l'antenna. Di sera ho buttato il cavo e non ci saranno 15 metri di cavo dall'antenna a casa. Però se no, è una cosa che mi sono ripromesso di fare in una giornata come quella che poteva sembrare stamattina, che invece mi ha un attimino tradito perché è iniziata a piovere. Comunque ti ripeto, ero in QRX, ho amici a casa, purtroppo il richiamo del baracchino ogni tanto si fa sentire, quindi sono entrato esclusivamente sentendo Sandro Cono, non mi potevo esimere di ringraziarlo per la gentilezza avuta. Ti restituisco il microfono e il QRX per me e magari ci sentiamo dopo per un saluto che rimane a ruota. Avanti. Ok, d'accordo. Buon QRX allora, no, io non mi trattengo molto, me la sto andando Cherokee 144 perché diciamo sera l'ho acceso verso le 8:30, mi sembra le 9, poi sono dovuto uscire per fare una commissione, poi il 27 ho visto che non c'era nessuno, sfazzolavo in continuazione, però non sentivo più nessuno, ho detto boh, ma cosa c'è, qualcosa è successo, ma la apparecchiatura mi sta funzionando, infatti ero un pochettino così, dicevo ma non so cosa sia successo, che il 27 nuovamente c'è sempre qualcheduno che chiacchia. Vabbè, buon Querix allora, casomai, se ci sentiamo dopo, se ci so, è buono, se no buon riposo a tutti. A parole, dai, buon 144, buon Querix quando lo farai, o meglio, buon Querix, buon 144 quando lo farai. E purtroppo a volte ci sono queste giornate dove non c'è molta gente in ruota, però mi auguro che siano sempre di meno, dai. Ti auguro una buona notte da questa parte, Antonio Grotte, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao. Ciao ciao. Torno a me. Diga Michael. Non niente, io ce l'ho già tenuto via adesso. E quindi, vabbè, che era tutto acceso, quello che mi stavo seguendo lontanato, non c'è problema. Lo stavo dicendo. Bella madonna. A punta di casino si è andato. Sto uscendo, sì. Sì, stai uscendo, ma c'è un po' di rumoraccio sotto. Aspetta. Come schiacci il portante, sì, tipo... adesso non c'è più. Eccolo qua. No, che era lontanato e quindi era un casino. Ho detto, lunedì ci vediamo sicuramente, lei, lunedì perché sono in fede con Luci. Ciao Franco e altre persone a cena e quindi sono andati via adesso. Lunedì ci vediamo, così mi dici qual è la posizione che dobbiamo ottenere per quella cosa da fare. Ehi, cosa mai lunedì sera, se tu lunedì mattina per caso passi là, ti fai dare il mio numero di telefonino, no? E ci sentiamo telefonicamente e poi ci mettiamo d'accordo per lunedì sera, così ci troviamo nei pressi nella zona nostra, prendiamo un caffè e ci facciamo anche caratina. Ehi Anto, sarà fatto. Non problema, sarà fatto. D'accordissimo. D'accordissimo, una volta a settimana di tregua. Sarò un po' più presente in radio, cose da fare a casa, e balle varie, e così insomma, la roba che ho lasciato indietro la recuperiamo. Ma Sandro c'è ancora? Corona? Sono in ascolto, io sto facendo un po' d'ordine qui sul banco. Sembra che hai fatto il mercatino, eh? No, avevo dei fatti contatti sulle vetrine del rompato, metto... ce l'avevo, lo stavo usando, ho detto ma mi fai qualche contatto, e allora mi sono aperto e mi sono fatto tutti quanti questi. Benissimo, ma io stasera sono salito Sandro, anche sono un po' la casa piena, poi è venuto Franco, quindi è andato a cena, Franco California, e niente, abbiamo provato MC85 con Sandro, però non mi soddisfa. Non mi soddisfa, io sono amante dell'MC60 senza nessuna modifica, quel discorso avevamo l'altro giorno, perché non bisogna di modifiche, di inneschi, di balle varie, e quindi mi accontento di questa bellissima modulazione che ho, però 15,60 è il top, bel top per quanto riguarda la modulazione. Poi date i microfoni che a me non interessa. Avanti ancora a te Sandro, non so se l'hai mai provato l'MC85, io l'ho provato stasera ma non mi soddisfa. Sì, ti confermo, ho provato l'MC50, l'MC80, l'MC85, confermo, no, non mi piace. A parte che vabbè, l'MC50 somiglia al 70 ma c'è una bella differenza. Tutte le serie 80 e 85 sono diverse, fisicamente un pezzino non mi piacciono, e singolo in modo notevolmente diverso. L'MC60 è ultimo e la Doris ha in più dell'MC60 che è compatibile con la maggior parte degli altri apparati e riesce ad abbinarsi bene, però che l'MC60 è perfetto per il tempo e magari non è ideale per altri. Io con le scuse di Antonio, Antonio Romeo 1 si intende, ho fatto degli abbinamenti strepitosi, particolari soprattutto anche in bande dei cammetri amatoriali. Avevo abbinato l'SM20 e c'ho ancora l'abbinamento perché ce l'ho, l'SM20 col Kenwood, quindi come Kenwood e Kenwood Icom, e ti dico che hanno un bellissimo abbinamento, sposano in contemporanea benissimo senza nessun problema. L'SM20 con il 430, col 440, col 140, quindi con tutte le radio Kenwood naturalmente analogiche, ha un abbinamento veramente strepitoso, molto più alto di questo. Naturalmente si tratta di modulazione, non di noccioline, quindi parlo nel senso che l'abbinamento deve essere abbinato anche con le corde vocali. Questo io non ho problemi, quindi faccio questi abbinamenti che sembrano veramente dei microfoni contemporanei, quindi due microfoni in uno come il gestino del Dash. Va bene, quindi Kenwood Icom va benissimo, Icom e Kenwood va benissimo, quello che non sono ancora riuscito ad abbinare è Yaesu Kenwood e viceversa. Non c'è abbinamento, non c'è forza, non c'è chiarezza di modulazione, non c'è niente, quindi ho lasciato perdere. Ma per il resto Icom e Kenwood hanno veramente un matrimonio con senza nessun problema, insomma. Ok, microfono per Antonio Romeo 1, mi direi se ti trattieni, altro che fumo una sigaretta e poi ci andiamo tutti a nanna. A te Antonio Romeo. Ok, vabbè, già mi trattengo un altro pochettino. E da cosa ci sei passato, Claudio, quei due microfoni che c'hai in via 4 novembre? C'era due modelli, ne ha, uno c'ha lo strumento, l'altro è senza strumento. Non lo so come vanno quelli della CTE, non te lo so dire. Bisognerebbe provarli. Diciamo che io su questo qua sto usando il microfono su originale, anche sull'altro c'è il microfono su originale. Poi non lo so che microfono lì ci potrei abbinare, non lo so, guarda, i microfoni non so cosa c'è in giro di commercio di microfoni da tavolo, perché giustamente dovrei mettere un microfono da tavolo. Riprendi Claudio. Sempre tu sull'817, cioè sul, cos'hai preso tu, l'857? Sì, affermativo. Tanto uguale, io sull'857 la ICO, ma non farei nessun abbinamento strepitoso, senza nessun problema, andrei direttamente con l'SM20. Un microfono di abbinamento per tutti i Kenwood, qualsiasi tipo di Kenwood, anche Kenwood, cioè Icom da 12-13 mila euro, non c'è problema. L'SM20 è l'unico microfono della Icom che lavora in maniera veramente eccezionale. Io ce l'ho, ne avevo addirittura due, uno l'ho dato, ho fatto cambio con l'MC60 perché avevo più Kenwood che Icom, quindi con questi abbinamenti ho detto ma sì, faccio cambio, l'ho dato ad Antonio mio ex Monte Oro, insomma, dai, S0, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un cambio, io gli ho dato un ICOM e lui mi ha dato un Kenwood. E quindi siamo rimasti contenti tutti e due, perché lui ha soddisfatto la radio ICOM e io ho soddisfatto quella Kenwood, nessun problema. Sandro, ho comprato un microfono da 45 euro che è un MB+4. Qualcuno dice togli la vettina, fai questa modifica, cambia la capsula, fai qui, fai là. Io ti vorrei far capire una cosa, per tutti appunto, è una cosa sempre molto semplice, perché si tratta di capire se effettivamente il microfono che non funziona è la persona che lo usa o è veramente chi lo usa. Ti faccio sentire questo MB+4, Sandro, perché io ho il Tane+3 con il Sears, l'ho sostituito, e per non cambiare il Tane+3 con la Fayette HB23, stamattina ho comprato un MB+4, 45 euro, da Fusaro. Te lo faccio ascoltare, per meglio sentire ed ascoltare, con la Fayette HB23. Poi tu mi dici se io devo, secondo te, cambiare capsula, togliere retina, fare modifiche, tagliare diodi, togliere teste di uccelli, quanto ce ne siano alla frequenza, ti faccio ascoltare questo microfono. E poi tu mi dirai, Claudio, lascia stare tutto così. Giusto per farti capire se effettivamente l'operatore è quello che manda avanti la radio o se è la radio che manda avanti l'operatore. Fammi commutare l'antenna. Ma penso che non devi toccare niente. Allora, adesso gli chiediamo a Claudio di quell'apparato per i canali. E chi glielo? Però lui gli ha dato, quando ce l'ho avuto io, diciamo, l'avevo modificato io, poi a lui gliel'ho dato 6 canali come dalla casa. Sì. Questo è quel famoso microfono che ti ho detto io, che lui ha comprato. Vediamo un pochettino come si sente questo microfono pagato. Ci sono due modelli, uno costa un pochettino e uno... c'è pochissima differenza tra questo da 45 all'altro, Ma sono con 4 watt, con 4 watt. Questo è un microfono da 45 euro che si chiama MB+4, poi c'è l'MB+5, quello che stai dicendo tu. Questo si chiama MB+4, è un DTG che io ho sempre odiato. È un microfono che non mi è mai piaciuto, né esteticamente, niente, ma solo la marca, forse perché sono un po' pignolo. Avendo purtroppo radio di una certa professionalità, eccetera, preferisco, se è finito con questa luce, devo fare per Natale. Ah, accendi. No. Perché non va bene poi? Prendiamo qua, ma lascia di andare. E quindi avendo una certa professionalità e avendo radio di una certa stazza dove non mi va di avere marche ZG e Intec e Bimbumba, non ho mai potuto avere, la verità. Però il risultato che si ottiene con un HB23 di 40 anni fa ed un microfono da 45 euro comprato senza cambiare neanche la connessione, messo lì a trasmettere, credo che sia il risultato che state ascoltando. Sono con 4 watt, adesso vi do 100 watt, ecco qua, 100 watt di modulazione, non cambia niente, la modulazione rimane invariata, anzi ancora più spinta, senza nessuna modifica. Quindi ritengo dire in radio che non è il microfono che fa l'operatore, ma l'operatore che fa la radio. Oh, Claudio, vediamo. Sì. Allora, quando eri con 4 watt si sentiva naturalmente la profondità di campo, che è una cosa normalissima quando uno spinge di watt, e assomigliava alla modulazione di Luca. Infatti ti aveva tolto un pochino di bassi e avevi molti acuti, si sentiva un sacco la profondità. Come hai dato un po' di basso, sei tornato alla modulazione di prima che facessi la prova, il cambio di commutazione d'antenna. Si è ridotta tantissimo la profondità, si sono aumentati i bassi e sei tornato alla tua modulazione. Quindi con i bassi sei uguale a prima che facessi il cambio. molto più hai degli appunti in più, e più campo, e assomigliami molto di più alla modulazione di Luca. Ma tu ti rendi conto che io con un microfono da 45 euro sembra che stia modulando con un Kenwood di 440 e un MC60, cioè, ma ci rendiamo conto cosa vuol dire? No, ma sai perché ti ho detto questo, Sandro? Perché quando io sento le persone che, purtroppo io faccio radio da 40 anni, ragiono da radioamatore, come ho già detto prima, no? Che poi a qualcuno piace o non piace, non sono cacchi che mi interessano, però il mio ragionamento rimane sempre quello di fondo. Perché uno deve modificare un microfono quando chi l'ha progettato ha detto che deve andare in quella posizione, in quella determinata circostanza, deve trasmettere così? Quindi ritengo giusto dire che non è il microfono che fa l'operatore, ma l'operatore che fa il microfono. Ci siamo? Sì, sì, ma va bene, va benissimo. Infatti il discorso di modificare, togliere capsula, fai disfa, no, non sono d'accordo. Sul fatto che l'MP4 si può far spingere ancora di più se uno per qualche motivo volesse allargarsi la modulazione, comprimerla o variare le tonalità fisse, cioè fissandole in funzione della sua voce, sono cose che si possono fare, fattibili, ma cambiare la capsula su un microfono, come hai detto tu, che qualcuno ha progettato e che in funzione della sua struttura meccanica, metallica, ci vuole quella e quella, il circuito elettronico è stato studiato con quell'impedenza, con quella risposta, con tutto, è giusto. Lascia il mondo come, vedi, 45 euro comprato, collegato, senza fare proprie modifiche, ed è già quello che è pronto. Ma pronto, Sandro, veramente pronto, ti riconto che ce l'ho a metà. Ti ricordo che ce l'ho a metà, con la mia timbrica, con quello che può essere un baracchino da 10 euro, perché è una cabina 23 di 40 anni fa. Già questa modifica l'avevamo fatta con Antonio Romeo 1, cioè l'aveva fatta veramente lui, in quegli anni usando un apparato, un baracchino, non chiamiamo neanche apparato, un cicafuso, 6 canali. Con una modulazione strepitosa che io allora misi addirittura il Tarrel più 2 da tavolo su quel baracchino 6 canali che proprio mi aveva venduto Antonio. Quindi il discorso è sempre quello, io ho anche usando un microfono con la quale determinate persone vanno a comprare e dal momento in cui lo comprano in giro di 10 minuti tolgono la capsula perché secondo loro non va bene, perché secondo loro il microfono è un cesso, perché secondo loro la modulazione è quella che è. Io l'ho comprato stamattina, connettore a 4, l'ho inserito nella KB23, funziona perfettamente senza fare nessuna modifica di connessione, di capsula, di balle varie. Non capisco come mai la gente dica che l'MB+4 è un cesso, me compreso. Siccome i risultati mi sembra che siano abbastanza buoni, ritirerei assolutamente quello che ho detto da sempre, che l'MB+4 è un cesso. Capito? Anche perché in molte persone l'MB+4 rende una modulazione molto metallica, molto chiusa qui e là, mentre a me me la rende efficiente al 100%. Ecco, questo ti volevo dire e questo ti volevo far sentire. Antonio, riprendi. Ok, no, ma te l'ho detto che funziona benissimo quel microfono. Poi c'è l'altro, mi sembra che costa 7 euro in più, mi sembra dovrebbe costare, l'altro microfono che ha due potenziometri. Non mi ricordo, me l'ha spiegato comunque dell'altro modello, me lo stava dicendo. Io mi sembra che ho ancora una capsula del filmato di quelle 6 canali, che c'era il Pony, cioè parlavi nel microfono e ascoltavi nel microfono, invece il Filmaster aveva il suo autoparlantino messo nella scocca dell'apparecchio, invece il Pony lo ascoltavi tramite microfono con cui parlavi. mi sembra io dovrei avere una di quelle capsule ancora, faccio pure che ci abbia ancora quarti pure mi o Claudio della 27, però non mi ricordo dove sono, le dovrei cercare anche la capsula, perché la capsula lì te la potrei cambiare, perché forse quelle capsule lì che sono molto meglio di queste. Sì, mi ricordo che il master è quello che mi avevi dato tu, quello sei canali che aveva l'uno, perché era una cosa normale, tutti i baracchini di allora avevamo il canale 1 per parlare con i pescherecci, poi il 12 mi sembra, 10, 12, 14, il 21, canale 23, adesso non mi ricordo, insomma, erano quei canali un po' particolari che usavamo in quei tempi, mi ricordo perfettamente. Il filmaster era appunto il primo baracchino sei canali che comprai proprio esattamente da te. E in quel tempo lo avevo tenuto abbastanza in ordine e lo diedi a Carlo Titano, alla buona anima Carlo Titano, che lui, anche lui con cura lo aveva tenuto tantissimo tempo. L'ho tenuto tantissimo tempo, poi non so che fine abbia fatto quel baracchinetto lì, ma funzionava veramente da Dio, aveva 5 watt alla grande, modulava strepitosamente bene. Ma tornando al discorso che avevamo prima, il problema è semplice. Quando uno compra un microfono, compra una radio, compra un baracchino, qualsiasi cosa compri, se il progettista l'ha progettato per funzionare così, io un baracchino non ne ho mai toccato, mai, non mi interessa toccare, io ho questi vecchi, questo è l'HB23, ho Seas col Tame più 3, ho il Zodiac 5024, l'MS200, ho un Seat Ranger 40 canali digitale, addirittura senza neanche strumento, che sono baracchini degli anni passati che funzionano tutti bene, benissimo, senza nessun problema. Non li tocco e non li ho mai toccati perché? Perché se io devo fare un abbinamento con l'amplificatore, come dicevamo con Sandro tempo fa, il discorso è molto semplice: se io dovessi toccare un baracchino che mi dà 4 watt e portarlo a 10 watt, vado a inserire l'amplificatore, ecco lì che siamo già a zero. Manca di modulazione, distorce, qui e là. Quindi dobbiamo renderci conto che il baracchino non va toccato per mille motivi. Uno per l'abbinamento in macchina, uno per l'abbinamento a casa, perché se a casa vuoi usare un amplificatore che ha un ingresso di 5 watt, non te ne chiedi a 10. La stessa cosa vale per la macchina, uguale, preciso, identico. Quindi non li tocco mai, mai. Perché ho un BV131, ho un altro lineareto, ho tutti i baracchini con i lineari, e gli HF con i lineari, tra l'altro, che hanno necessità di un incremento di pochi watt per poi andare con 100-120 watt e non avere nessun problema a modulazione, tutto qua. Ecco perché odio quelle persone, e non sono d'accordo, le persone che vanno a toccare i baracchini per poi uscire la cazzo di cane, in poche parole. Ecco. Il risultato è questo, cioè un microfono a 45 euro, un baracchino che non ha più nessun valore, quindi storico, un lineareto, un BV131 degli anni 80, degli anni 90, non so quando è uscito il BV131 prima serie, e i risultati sono questi, Sandro. Mi pare che ne abbiamo già parlato, no? Come tu, il Tomstat 25B, ottima radio, ottimo baracchino, un abbinamento da pochi spiccioli, modulazione ottimale, sei d'accordo? Grazie, perché sono d'accordo, ha voglia, e ci sto divertendo con quell'aggeggio. Glielo stavo spiegando, Claudio, io di quella 25B Constat, lì ci avrei abbinato bella MP2 da tavolo, il Tanner, il Tanner e l'MP2, perché c'era da tavolo il Tanner e più c'era quello preamplificato, diciamo, manuale, che c'aveva la levitina per aumentare la preamplificazione. Gli stavo spiegando l'amico di Alghero di quelle Claudio, di quel filmato sui canali modificato a 15 canali, non mi ricordo se l'avevo portato a 15 o a 16 canali. Comunque il primo era, aspetta, 1, 7, 9, il 12, il 15, il 19, non ricordo che canali era, che poi a volte il 23 l'avevo sacrificato, me ne andavo sul 27, ne avevo tolto il quarto del 23, me ne andavo sul 27 fuori frequenza a volte per fare i DX. Addirittura una volta con quel filmmaster io parlavo spesso e volentieri con questo Romeo Charlie di Trento, ma ci facevamo dei QSO di mezz'ora, cioè finché ci durava la propagazione io iniziavo alle 2 a chiamarlo, lui alle 2.05 sentivo lui che mi chiamava, e Romeo 1 iniziava a chiamarmi e via, e dalle controlli favolosi con quell'apparecchio. Guarda, la soddisfazione mi ha dato Filmmaster 6 canali, anche il Constat, perché giustamente poi, però col Filmmaster 6 canali quando ho iniziato io, guarda, se altri apparati non me l'hanno dato. Beh, in quei tempi era così, Anto, era così. Sì, mi ricordo che poi avevi modificato il tutto e andava poi a finire, anziché si raddoppiavano i canali, non mi ricordo cosa hai fatto, ci avevi aggiunto una base per i quarti, non mi ricordo, ma avevi fatto un capolavoro, sì. Ricordo anche quello, ma il Filmmaster era un baracchinetto veramente eccezionale, eravamo ero ragazzino, mi sembra 16enne, 17enne, adesso mi ricordo, forse 15enne, e modulavo con quel baracchino lì che comprai da te e facevo degli ottimi risultati, insomma, con tutti, con Sassari, con Paolo Torres e dintorni, con Alghero, insomma, eravamo tantissimi allora, quindi i problemi erano ben pochi. Ribadisco che la mia è sempre una cosa un po' che la chiamino come vogliono, insomma, come chiunque possa pensare il contrario, ma io non sono d'accordo a queste modifiche fatte sui microfoni, come te lo sto attestando. Io ho 20 anni che uso l'MC60, non mi sono mai permesso di toccarlo, anche perché i risultati con la mia modulazione sono eccezionali, non ha mai fischiato, non ha mai fatto, non ho mai avuto bisogno di piani di massa supplementari, e quindi naturalmente sono sempre lavorato alla grande. Poi chi lo apre, lo fa, e sicuramente non va d'accordo con me. Io sono contrario a queste cose, vanno lasciate come devono essere, sempre per rispetto ai progettisti e sempre per rispetto a chi esce veramente bene, perché sarebbe dire il contrario, insomma. Io non ho mai avuto problemi di modulazione, qualsiasi microfono prendo in mano lo faccio girare alla grande senza bisogno di modificarlo e senza bisogno di aprire e chiudere come una scatoletta di tonno. Questo è il mio pensiero. Io ripeto, chi lo fa vuol dire che non sa neanche quello che sta facendo, tutto qua. Attestando ancora 5 minuti, la sigaretta l'ho finita, poi me ne vado a nanna, cambio. Questo discorso l'abbiamo fatto, Claudio, è sempre in funzione del fatto di quel problema lì, lo sappiamo, se fischia perché c'è un problema di massa, se non abbiamo la massa perché non abbiamo avuto la possibilità di fare una cosa come si deve, come una barra di massa, una barra di rame, con lo scaricaterra e tutto, bisogna adottare questi scamotaggi. I scamotaggi che sono sempre rimovibili per ottenere anche qualche cosa in più, però se a monte non ci ritroviamo prima di tutto la messa a terra, non si può fare un grande. È sbagliato anche quelli che si fanno la messa a terra e si collegano anche a un sifone, quelli che fanno la messa a terra e si collegano anche a un idrico. Io non sono d'accordo, perché anche se comunque è sempre una buona mezza la messa a terra, perché comunque i tubi di ferro caricano comunque il più possibile. Niente da paragonare con un bel paletto da un metro e mezzo piantato un metro e mezzo sotto terra e un bel cavo come si deve. E siamo tali per vivere, se no non te li puoi godere neanche facilmente. Quindi piccoli compromessi bisogna adottarli in alcuni casi. Se non puoi fare altro, o non usi la radio o fai un compromesso. Compromesso, io ti dico compromesso. Ah, sono d'accordo con te. È un compromesso che però secondo il mio punto di vista è sbagliato. preferirei avere più bene, più ben fatto un piano di massa, quindi un accorgimento dove mi consente di non andare ad operare sul microfono, che andare ad operare sul microfono e non andare a farmi un bel piano di massa. Questa è la mia opinione, Sandro, te l'ho già detto, io sono contrario a queste cose. Purtroppo è così, io quando sono arrivato qua a Carbonazzi nel 1985, la prima cosa che ho fatto per poter, siccome sapevo che cosa dovevo usare, che cosa avevo, per poter usare i microfoni che io nell'85 mi pare ho comprato, nell'84 ho comprato l'MC60, il primo MC60 col 430, la prima cosa che ho fatto è ho chiesto all'elettricista se era possibile avere un bicchietto di massa con il cavo singolo da 6 mm quadri che mi saliva nella casa, siccome era ancora in costruzione, così è stato fatto. La stessa cosa ho fatto fare nel secondo piano dove sono adesso e i risultati sono quelli, non si niente da fare. Quando ci si fa un bel lavoro, soprattutto come lavoriamo noi a determinate categorie di qualsiasi microfono, perché usiamo microfoni a basso livello e ad alto livello, perché io ne ho, quindi non è che, però parliamo di Turner più 3, parliamo di SM20 della ICO, ma è solo arrivato questo ZGMV più 4 della IAESU, che è il 2 o 3 della Kenwood, quindi microfoni che hanno una certa dimestichezza, però hanno anche bisogno di avere un bel piano di massa, perché altrimenti non lavorerebbero in condizioni alte, nel senso che tu come lo sollevi lui va subito a rientrare con il sistema RF, e questo non deve succedere se uno ha un bel piano di massa. A me non mi succede perché ho un bel piano di massa. Poi quello che ti ho detto che ho fatto, che mai qualcuno che è venuto qua nessuno se ne è accorto, io dietro il pannello della scrivania ho una barra di rame da 50 cm tassellata a muro dove arriva il giallo verde da sotto grosso da 6 mm quadri con l'occhiello, e poi ci sono tutti i gialli verdi delle radio collegate lì, perché sono a occhielli forati, quindi sono tutte collegate lì da un millimetro e mezzo, quindi è chiaro che il lavoro si deve fare, si fa o non si fa. Se si fa non hai problemi, mi rientri, se non lo fai avrai sempre lo stesso problema, Sandro, che tu mi conosci come conosce anche Antonio, perché è una vita anche lui che fa radio, anche se un po' assente, però è una vita che fa radio, perché l'ho conosciuto che era ragazzino proprio con la radio alla grande. A te Antonio. Qui riprende Antonio, Claudio. Antonio se ne va in QRT, casomai passa là per quella questione, mi fai un trillo e ci sentiamo, poi ci troveremo lunedì sera. Poi saluto anche l'amico di Alghero, ben sentito per la prima volta, comunque da Sassari Samoduano, stazione Romeo 1, operatore Antonio. 73 più cordiale a te Claudio e l'amico di Alghero, e buon QRT anche a voi. Romeo 1 va in QRT. Passa di Rogero. Il signore, è stato un piacere anche per me, l'importante infatti è anche sentirsi per la prima volta e ancora. Ciao Antonio, Romeo 1, è stato un piacere da parte mia. 73-51 con 144 e buon QRT. Mi approfitto anch'io, anche Claudio, però ho capito che ha finito la boccata di ossigeno e quindi è ora di andare a nanna. Claudio, ce la andiamo a nanna. Io quando mi faranno tirare un cavo in facciata, me lo fanno portare giù fino al giardino, piantare un paletto, potrò eliminare il condensatore all'MPC70, però fino ad allora avrò ancora qualche piccolo problemino di massa. Signori, notte, mi approfitto anch'io. Se state avendo 50 circolari e come doppio le compresi, come in tanto ricorda Claudio in caso di salutare, non sono sicuro se le WL sono abilitate per ascoltare la CD. Claudio, se mi ragguagli su questo, a te il microfono, ciao. Un saluto allora ad Antonio, ciao Anto, un abbraccio, ci vediamo e ci sentiamo lunedì, dai, tranquillo che ci vediamo. Buonanotte e alle prossime, grazie per il tuo intervento come sempre. Sandro, sì, beh, 0:30 anche per loro, quindi sicuramente è un discorso generale, insomma, ecco, loro amatori ci hanno abituato a salutare sempre gli SWL in ascolto, quindi lo faccio quasi sempre anche in 27, anche se non è una cosa fattibile, perché insomma chi fa l'SWL in 27 sicuramente è anche il baracchino. Faccio però una cosa naturale che mi viene spontanea, quindi saluto sempre anche gli SWL all'ascolto. Categoria 0:30, quindi no, non ci stanno problemi. È tutto compreso, dice quello, no? Più le V e le U, perciò alla fin fine è un radioamatore che ha la patente di ascolto a tutti gli effetti. Ok Sandri, ti saluto anche a te, allora buonanotte, grazie delle due chiacchiere, io sono intervenuto un po' tardi stasera, però ti ripeto, è passata gente a trovarmi, poi con Franco che ci conosciamo 30 anni, è rimasto qua a casa a cena, dice che ha fatto due chiacchiere, due cosettine insomma, e due risate soprattutto perché continua a essere per me sempre un piscio detto in sassarese. Ok, ciao Sandro, grazie di tutto e ci riascoltiamo alle prossime. Qualsiasi modifica, qualsiasi cosa abbiamo da fare, lo sai che da parte mia non ci stanno problemi, condivido o non condivido, è sempre bene parlare per far sì che si abbia poi un prospetto generale per quanto riguarda poi la situazione opera, così chiamata, quindi messa in opera del tutto. Ciao Sandro, ti rimetto il microfono, ti ascolto e poi chiudo. Grazie. Aspetta, sto uscendo, sì. Ok, no, è sempre un piacere, dai, perfetto. Poi magari capace che così giusto per chiacchierare prossimo futuro, a breve, siccome ho ripreso in mano un progetto di una Ristocast con una L34 e due 519, potrei chiederti un consiglio. No, quando ce l'ho in mano, se non mi scoppio in mano, ti chiederò un consiglio. Dai, buonanotte, alla prossima, ciao, notte. Però qua mi metto in conto perché guarda, proprio oggi ne parlavo con un collega radioamatore e mi ha detto un giumbo Aristocrat da modificare, cosa ne pensi se modifichiamo la piastra e le mettiamo due L con due piastre, guarda, non cominciare perché già ne ho modificato uno, mi sono trovato benissimo, comunque vediamo quello che si può fare, magari la stessa modifica che stiamo preparando assieme. Vediamo, perché è stato messo in disuso perché aveva dei problemi con i condensatori, c'è stato un problema con la tensione e ha bruciato le valvole. E quindi lo sto riprendendo in mano, io ho preso le valvole, solo che devo spostare gli zoccoli perché le L519 sono troppo sottili e sono vicine e lui sostituendole con le 509 non ci stanno. Allora devo modificare lo zoccolo e allontanarle tra di loro per aumentare le 509 che ho recuperato e devo rivedere un pochino il progettino, perché quello là quando funzionava 230-240 watt mi tirava fuori tantissimo. Come lo apro, anzi l'ho fatto ieri, comincio a mettere le mani, vedo come esce fuori, se non ci rimango attaccato non scoppia niente, poi ci confrontiamo un po', potrei chiederti qualche consiglio se non trovo qualcosa. Volaci in serie con le due strette, Sandro. Lavoraci in serie, una volta che sposti la zoccolatura della nodica, lavoraci in serie. Le fai due agganci in serie e in mezzo all'aggancio praticamente della nodica le metti una lenticchia da 400 picofarad per poi vedere la risposta. Come sposto e comincio a montare, mi descrivi un po' questa situazione, vediamo un pochino cosa che differenza fa dal prima al dopo. Esatto, poi magari bisogna che ci scambiamo le mail, così ti mando qualcosa su quel progettino, perché io l'avevo fatto 5-6 anni fa ad un operatore di Alfieri. Aveva un giumbo Aristocrat che appunto, come hai detto tu, ogni volta le partiva la modica del pilota. E quindi lì, insomma, ragionandoci un po', abbiamo fatto due calcoli e mi sono accorto che in pratica la piastra che alimentava la nodica dell'accordo era talmente sottile che quindi andava a comprimere l'intensità del carico sullo zoccolo, proprio sull'ultimo pinino dello zoccolo, scaldava e bruciava la valvola. E quindi abbiamo fatto praticamente lavorare due zoccoli in serie, montandole però due valvole più piccole, facendo sì che avesse praticamente lo stesso carico, però dando un po' più di alimentazione. Comunque poi lo vediamo quando c'è il tutto, lo vediamo assieme, ma è un bel lavoretto quello, è un bel lavoretto. Poi te ne darò un'altra che è praticamente il cambio delle due valvole, due in serie e due in parallelo, raddoppi quasi la potenza, aumentando il pilotaggio sul primo pinino, cioè sul secondo pinino della nodica centrale. Poi te lo spiego meglio. Comunque dai, una volta che c'hai l'amplificatore poi lo vediamo assieme. Ciao Sandro, buonanotte, è un piacere ascoltarti come sempre e ci sentiamo domani.